fare. Ogni ora un momento in più con te. Ogni ora altri muri crollano giù. Ogni ora un giorno non sentirò più. Ogni ora quest'amore, questo senso del mio tempo che mi invece. Desiderato, disperato.